quanti, chi è? Chi c'è in canale, in questo canale? Avanti, chi è? Chi è? Graziano. Dimmi. Antonello, hai sentito? Cosa? Ho detto, se hai sentito Antonello. No, non l'ho sentito, ho acceso adesso. Ah, vabbè. Se lo senti, dilli che lo sto cercando, dai. Se lo sento, già glielo dico. Non è il telefono, ha telefonato. E non risponde. Cosa? Detto che non risponde, c'è il telefono, boh, non lo so dove ce l'ha. Sarà uscito o è addormentato? Boh. Sarà sul raggetti, sarà stanco. Povera bestia. Il bambino è stanco, mica la vola. Mi fa nuda, la mattina la gira. Tutto sudato era, stamattina. Povera bestia. Era a bagno di sudore. Curaretto. Oi oi oi. Chi è? Avanti il bippi. Avanti, chi è? Chi è? Lo fa voi! Vedi? Faccio sì! Ciao Gio Mari! Oh, faccio sì! Non ho capito! Ho detto buonasera! Buonasera! Sei a casa! E a casa sono, e beh, dove vuoi che sia? E te se vagheggi! Tutta, nulla, guardandomi la televisione, e cosa vuoi fare? A me ci guarda la televisione, se un altro. Cosa vuoi fare? Purtroppo. In mancanza di altro, Giovanni, lo sai. Purtroppo è così, infatti. Non è che si possa fare niente. È arrivato a certo età, non ti prende nessuno, Stamattina sono andato tramite l'agenzia a consegnare due curriculum, speriamo in bene, e cosa vuoi fare? Io sto facendo domande, contro domande, ma non ci spero, Troppi ce ne sono, non ce ne sono, ce ne sono centinaia, centinaia, centinaia. Per carità. Purtroppo. Non sei uscito allora stasera. Ah? Non ho capito. Non sei uscito stasera. No, negativo, no. Sono andato sì a fare una ricarica al telefono di mia madre, a piedi, e poi me la sono ritornato. Non c'è nessun altro, no? No, c'era Graziano, poi non lo so, ma l'ho sentito stasera, Graziano, poi basta, non c'era nessun altro. A parte tommelo bene. Il pandoro ti stai mangiando, ah! Bello bene, qua, giù di sveglia! Ti ci va stai mangiando il pandoro! Ma te, più gusto! QRM, non si capisce niente, mettiti l'antenna. Io sento delle scariche, buh. Che lo sei che fai tu, blabbi? Ma che è sto gufo? Non ti posso rispondere che mi sto guardando la Diana 350 Magnum. Ma Diana, ma la Diana, la regina? No, il fucile. Oh, capito. Così si tira una pillolata da qua. Ciao Mari! Ciao Marina! bella, tutta ricamata, Bello, bello, bello. Altro ne hai oltre a quella? E altre due. Bella, bella. C'è anche il calciolo in gomma, fanno crebati nei fatta. Parlo Vietnam, devo andare a fare la guerra. A te le butterà dai nofi. Ehi, quando mi gira bene fare il battalone, a faccia che sa casa tua. E ti posso la rosa. È vero. Eia. Imballato. Non si capisce, no? C'è qua il reme, mettiti bene con l'antenna. Oh, non ti sento più, no? Magari grazia. Ah, boh, no, tutto qua il reme, non si comprende niente. È la sola, ma non riesco a distinguere chi è, perché c'è qua il reme. E l'ho spostato a vedere se sento meglio. Oh, è peggio. Bubu. Bello, bello. 1600 euro. Ma stai comprando? No, sto guardando. A vedere se ci sono novità più belle. Che è bello questo. Non ho capito. Oggi sono passata a ritirarsi la batteria SDA. Ma te la stai cambiando? No, mi fa rimborso su PayPal. Quando mi fa rimborso me la ordino per quello che è, che ce l'ho stato quello là, non ce l'ho più. Così ne ho una discorsa. Grande come quella che c'è, no? No, vabbè. Sì, che ce l'ho per la DB, io quella là l'avevo ordinata per l'altro. Però per l'altro ci mancavano 2-3 mm all'incasso, capito? Se vogliamo modificarmi, bastava con la lima limare i due tacchettini che c'erano in gomma e già incassava, ma a dita si dovrebbe di faccia. Ce la mando dietro se non serve a nessuno qua, se non ce l'ha nessuno così. Ma se no te la mando da lì, non ce l'ha nessuno e ce l'ho spedita indietro. E tu la vuoi vedere a me, ma ci abbiamo la stessa radio. Ah? Ho detto, tu la vuoi vendere a me, ma ci abbiamo la stessa radio, quanto costa? Ehi, 16, non è che costa molto. Ma io l'avevo ordinata per l'altro, era quasi giusta, per un paio di millimetri. Non incassava, però io l'ho guardata, se limavo quei due tacchettini con la lima, incassava e andava bene, ma è aggiustato se la presi in faccia o non andava bene. Tutto l'incasso era perfetto, ci stava giusta, solo non riuscivo a arrivare dove fare i clicchi, capito? Ehi, ehi, è molto grande. Ho stampato il foglio al tabacchino. Prima nel computer nella chiavetta, sono andato al tabacchino con la chiavetta, me l'ha stampato. Mi ha dato le fotocopie, perché uno di quei fogli l'ho attaccato all'imballaggio che ho fatto della batteria. E un altro foglio mi ha dato. Per il reso che ho fatto. E oggi se ti è venuto un po' solo 3 mesi. Se la presenza mi ha dato la ricevuta, niente di che. Adesso fra 2 o 3 giorni quando arriva lì, automaticamente mi rimborsano i soldi nella carta. Come veniva Gio Maria, Gio Maria. Non va bene neanche al suo, se no se l'avevi abbigliata non ho problemi, ma l'ho spedita e non ho perso niente. Ma lì hanno sbagliato loro, perché io ho guardato il codice, era differente da quello che ho digitato io il codice. O sbaglio, l'hanno fatto loro. È vero. E allora? Vabbè, grazie. Scusa, stavo mangiando l'arancio, buono, eh. L'ho preso lì all'Eurospin. Va. buon bossolo, dolci dolci. L'ho preso l'altro giorno io, infatti li ho finiti, no, uno ce n'è rimasto. Oggi mangiamo niente, una banana e due mandarini, clementini, buoni, eh. Tu devi assaggiare questi aranci lì all'Eurospina, della Nafel, buoni, eh. C'ho anche le pene, se non termino quella non la compro tutta. L'arancio ce n'è uno. Poi c'ho il cassimela ancora, tre fini giù. Quelli fanno fare tanta cacca a me. A me non mi fa niente, pa. Tu dici la parola stessa, cacchi. Gio Maria ne ha un albero, mi fai da Gio Maria, ti posi sotto all'albero. Ne ha un albero, vanno. Giusto, me l'ha detto. Ma fai ciò Gio Maria un'altra volta. C'è una campagna grande. Basta invitare il periodo dei cassi, ti posi sotto all'albero e ti rimani a crepatura. Perché è un po' grande quell'albero. E io? Digliela per lei se tu vuole. Se no andiamo quando non c'è e ci prendiamo le cassette. Facciamo così. Tanto già lo so, dove tu lo sai, dove? No. Ehi, già lo so io. Guarda che c'è un cannone per puntatomi, quando arrivi giù al cancello. Ma io entro da sopra, manco ci passo dal cancello, scendo da dove ci sono i fili. Come entro da vicino al cancello, mi sono gli occhi e ti prego. E ti fossi parà subito. Ma io già vengo armato per quello. Mi porto la beretta, la 84 e la 92. Tira lì la pace da Edo e il pari. E rispondo al fuoco. E vediamo chi c'ha la mina. Vero, Luca? E io? Una la do a Luca. Tu fai una cosa, io sparo a Gio Maria. E tu spara i cacchi. E allora? Spara i cacchi accendono nella cassetta, tanto li pigliamo mezzo crudini, poi già cucinano in casa. Ma sono cacchi normali? E allora, cosa vuoi? Cacchi normali, grandi e piccoli, diglielo Gio Maria. Vi so pure i cocchi, vi so pure. Ma vi sono i cocchi? Sì, gli altri cocchi pure vi so. Grazie a... Luca non sa cosa vuol dire ricocchi. Bisogna ricacchi e ricocchi. Non l'hai mai mangiato ricocchi? No, frasio. Albicocche. Albicocche, cugine, per la regina, per la guida zaga, di tutto, c'è un frutteto, per la granata. Chissà non ne va vedendo, ecco i penni l'albero. Non so se sono come quelli del padre di Marina, che sono gigantesche, sembra una granata, bella, poi ogni chicco pari un pollice. Sembrano perle, sembra. Vuol dire che c'è terreno buono. Allora, io vedo grasso da reno da Gio Maria. Poi è proprio zona di frutteto, li cresci di tutto. Buon per lui, a me non sa cosa mangia. E allora, quando andiamo ci prepariamo il carrello, attacchiamo quello di Gio Maria. E lui? Certo già ce lo sta tenendo in caldo, lo attacchiamo alla macchina tua e trubarettaggio. Vai anda Gio Maria. Già lo fa bene, già lo fa bene. Contento sei lui. E io? Hai visto Gio Maria, è passato a Luca contento. Contento, 40-50. E io? Sicuramente avrà anche uva buona. Così è Gio Maria. Cos'è? Ho detto, sicuramente avrai uva buona. Ehi, c'era. Se non è più tempo. Sì, no, dico, lo so che non è più tempo. Sarà di quell'uva dolce. Una volta gli ha dato un pezzo alla zia di Marina, ma questa uva, mamma mia, miele, il miele li fa 10-0. Ti piace. Così dolce, che stai per zumba? C'è dolce di Sisua, c'è o no? Oh, non mi lo gusto. Ti viro bello bene, come la placi pro? Buona, buona vita, giacita. Voglio vedere se mi pensi il prossimo anno, anzi quest'anno. Formo marroncino dorato, che è poco buona, ia. L'uva, vabbè, anche a sorso è buona, quella che usano per fare moscato. Il moscatello. Ehi, c'è anche l'uva alla tavola, l'uva Italia, sta proprio rimando. Questa è buona, Giammaria se la pone in mezzo al barino, che figlio Giammaria. E allora, mi fondo rubare questa cosa, non saranno. Aggiungo please. Allora, mi vedrò bene, chissà non mi vedrò bene. La già stata attaccata, ancora bisogna attaccare le padrone. Secca, bello la pare. Sì, ma Giovanni, il gufo non fa nulla in campagna, però. Ah? Ha giudito che il gufo non fa nulla in campagna, non ha frutta. Non mi sono mai falato, è la mia falata, ma io la sua no. Io già ce l'ho la frutta. Io ho melograni, pene, mela, aranci vaniglia, aranci normali, noci, mandarini, clementini, l'uva no, che sono rimbambiti me ne ha tagliato i piatti. Le sto facendo crescere a pergolato. Quell'imbecille ci è passato con la motosappa e me l'ha tagliato. Nespole, altro lui, mela, mela salda e da minuta verde. Pera. E già andava bene, dai, già ne hai. Le susine, quelle a candela, come si chiama? La bruna munica e anche quella rotonda che si fa prima gialla e rosa e gialla, va. E le pesche già c'è piombo un be e due leoni, infatti la recensione è alta, a chi si do chi si leoni ti magnani. E sono sciolti, liberi, liberi. Gio Marina invece non ne ha, c'ha solo gatti. Luca! Maria, grazie, sto mangiando un caccomera, buono, dolce, dolce. Ma te la fossiamo intanto, lo sapia io, lui. No, sto facendo merenda, mi sono mangiato un pezzo di torta natalizia. Una fettina piccolina, come ho mangiato una testa di finocchio, dolce, buona, tenero, ho mangiato un arancio caccomè, ce l'ho fatto. No, io no, solo un caffè, c'ho anche il tiramisù, una vaschetta, però non ne ho voglia. Mi sa me l'ubbiglio qui, pensando ci sto. E cosa? Il bagno. Figlia di Lucrezia. Si va. Deciso sono. Noi, iaia, oggi non avete canale di papità, no, Lì chi denti siete? Io sono preso di qua. Gufo! E ammito sì! Aspetta che sto guardando la caccia al cinghiale! E dove? Nel computer! A vedere come lo buca! A vedere? Come lo buca! Bello grasso te lui! Se si ferma è fuchito! Vabbè! C'ha anche i denti fuori, laterali. Maledetto. E la testa che ha appena si avvicina, il l'arbo su esca. Domani mi si piglia un cinghiale, Graziano, su Guzzi in campagna azzurra, mi. Sì, un cinghiale su in campagna Graziano. Ma che si la mai denti, ma se tenti che devo buccare, non devo buccarmi, ecco. E vabbè, così, Ha detto che non si invita, mi Giomari. Si rimane tutto, su non si cheggia. A fare la guerra deve andare. Allora se la mette di la bagno. Gian Maria, ha detto che non va denti, che ne ha perso la dentiera. Ah, così è. Buonasera, signor Tore. Buonasera, signor Gian Maria, e l'altra compagnia che c'è. Ma te immagini. Se la mette di la zura. Ah, tutta la sera se la mette di cigoli. Che dici che deve andare in Vietnam a fare la guerra? Sì, ma senza denti non si può andare in Kiwi. Ciao, Tore. Ciao, Luca. Ben sentito. Senza denti non si può andare lì, Giomagli. Allora, mi ricordo, anni addietro, no? Questo tipo, che praticamente è il cognato, questo mio amico, andava a caccia. Io me lo ricordo benissimo, ma ti parlo di un bel po' di anni fa, forse 20 anni fa, se non di più puro. E ci ha invitato in campagna a mangiare il cinghiale. Io mi ricordo che era, non era costume, era duro, era valla, in sangue era ancora. No, perché il cinghiale rimane duro, e rimane gattuso, rimane, anche se lo cucini parecchio, rimane sempre gattuso. Cioè, della serie, però l'ho mangiato al sugo è tenero. Vuol dire che quello l'ho saputo cucinare allora al sugo, però se lo cucini arrosto o altri vari tipi, rimane gattuso. Ho capito, della serie, se non va denti buoni non riesce a mangiare, Lucy. Sì, no, rimane galloso, rimane, perché è selvatico. Rimane così, rimane. Vabbè, io mi ricordo comunque da... Non mi manco più azzurro. Poi giorno lì avrei preferito più il pollo, guarda. Il pollo arrosto. Altro che cinghiale. Io Mari. Se non sai cucinare cinghiale, è duro, sì. È duro, il cinghiale è duro. Il sapore è sempre buono. Se lo fai... pezzettini lo metti a fare il sugo, no? Per la pasta asciutta, che a tassa il sapore buono che li dà. Però basta fare a pezzettini piccoli, che non siano grossi, e già cucina bene, dai. L'arrosto bisogna saperlo cucinare, il cinghiale, capito? Denti buoni ci vogliono. Giomari. Vuole lasciato cucinare a lento per essere buono, e deve essere cucinato bene, rimane un po' duro, caldoso rimane, però già è buono. Io sinceramente me l'avevo portato un pezzo, ma non mi va, è troppo duro, troppo duro. Ho provato a fare sugo, l'ho fatto a pezzettini piccolini, non grossi, e già ho visto che è andata bene. Ha fatto un bel sapore, gatto, sulla pasta asciutta, che è un buon botto. Io ne ho un pezzo ancora da cucinare nel sugo, infatti glielo faccio fare nel sugo a mia moglie, esce più buono, esce. E le volte che me l'ha fatto, sempre col sugo le ho fatto fare. Poi se vuoi mangiare roba tenera, bisogna che sia anche piccolo, che non sia molto grande, capito? Allora, se è molto grande è duro, ma se no, se è piccolo è più morbida la carne, per cui è più piacevole mangiandola, capito? Anche arrosto. E beh, l'ho cucinata bene, specialmente adesso che... con questo fatto della peste suina bisogna stare anche attenti. Vabbè, quando lo bruci già cesso questa peste, così che brucia anche i microbi che ci sono. Infatti, bisogna farla cucinare lento, bisogna farlo cucinare. Invece farlo arrosto, bisogna cucinare lento. Io preferisco il coso, come si chiama, il muffone, il muffone mi piace molto, cazzo, razza carne saporita, quelle bistecche mi le metti sulla graticola, a un chilometro lontano senti l'odore, buono veramente, solo l'odore ti fa venire l'appetito a to. Rusoco, ma non si può ne toccare, sì. No, che è poco poco per il rischio, eh? Vabbè, io l'ho mangiato per altri tempi, però, molti anni fa, saranno 25-30 anni fa, ce l'hanno fatto mangiare lì a Coso, a Orgosolo, certo. Lì allora erano liberi, caspita, e potevano fare quello che volevano, capito? C'era una tenuta proprio sul monte, hanno fatto l'agroturismo e c'era di tutto, dalla lasetta, tutta roba selvatica, niente mangime, tutta roba selvatica, ma tu devi sentire la carne di quei posti che è tutta un'altra cosa, Adesso no magari, perché adesso anche lì hanno imparato a dare mangime in inverno, capito? Però prima mangiavano tutta roba selvatica e basta, ghiande, a rotta di collo perché è tutto boschi lì. Prima sì, prima si dava tutta roba naturale, si dava. Ma ormai è tutto passato questa cosa. Poi già ci sono ancora dei posti dove lo fanno buono. Ce ne sono, sì. Ci sono sempre. C'è quei piccoli proprietari che campano dai loro prodotti, capito? E per cui sanno già come fare, come pesarli, farli grandi, e la carne è sempre buona lì, sempre, sempre, tutto buono lì, certo, è tutto buono. E poi lo dico io, il daino, anche quella è una carne buonissima, non si possono ammazzare, però lo fanno, Sì, ma quello lo fanno ancora, lo fanno, qualcuno lo ammazzano, di quelli che sono già cominciati a andassini, che lo ammazzano qualcuno, ma sono sempre buoni anche quelli. Guarda, vabbè, a caccia cos'è che c'è? La caccia del cinghiale, poi i tordi, colombacci, poi. Anche il colombaccio, vedi, il colombaccio. Devi saperlo cucinare, tu fai la fai il sugo della pasta asciutta con quella roba, ma lo sai il sapore buono già, ti va bene l'appetito o no? Ma io guarda, non sono amante di queste cose, guarda la salsiccia di cinghiale, l'ho mangiata, è buona, solo che la volta era un po' grassa, io con il grasso non mi vado d'accordo, e vabbè, già è tutto buono alla fine, se con tu beh, io mi ricordo che ho mangiato gnocchi, ecco lì al circolo dove frequento io, gnocchetti col sugo di cinghiale, erano non buoni di più, buonissimi. Infatti è così che si fa, è quello lì il buono. Cavolo, ma buoni veramente. A parte quasi intendi, lo periodo degli asparagi, che era di magnammi, una frittata di asparagi o non so, un bel risotto, carico di asparagi, mi piace un bel. Prima non mi piazzia, niente, va, ci vado matto. Vabbè, non li avevo mai mangiato, comunque sono molto buoni, niente, devo trovare qualche posto per andare a trovarne un bel, no, un luogo, e là c'è più, tanto il tubo ha fatto un coso, quindi voglio fare un bel, a chi una parte me li cucino e l'altra parte me li vendo. Se tu vai a Orgoso, la Sopramonte, lì c'è un agroturismo che hanno fatto da parecchio tempo adesso, c'è un campanone molto grande, ma molto grande, a fianco è tutto fatto a specie di casette così, e lì ci sono i tavoli di familiari, posti da 6, da 12, e e in mezzo c'è la sala grande, con un tavolo lungo, lungo, lungo. Lì fanno tutta roba selvatica, tutta roba di proprietà di loro, perché è una tenuta molto grande, ma molto però grande. Sì. Fino a tutti i sopramonti. E lì si mangia bene, mangia molto bene. Adesso non lo so, perché io sono da parecchi anni adesso che non bacio in quella zona, però prima noi andavamo a mangiare lì, quando io uscivo a vendere quadri col furgone, e noi mangiavamo sempre lì. A pranzo dovevamo salire per forza su. Ho capito. Se un giorno organizziamo e andiamo, mi tutti in greffa, portiamo anche a Gufo, ovvio, no? Ah, Gufo governa a fare la vestimenta a Edu e a Frippero. Che ci deve mangiare il gruppo, lui. No, li portiamo, no, non li portiamo. Li possiamo portare a Tore se vuole venire. E dove, Giomari? A Sopramonte, al Duoro, al Gosolo. Ma dai, Chivi, ci vuole... il permesso ci vuole. Il permesso? Ma il permesso è tua moglie, lo credo, No, ha già permesso. Lì ci va chiunque a mangiare, capito? Però io sono da adesso parecchi anni che non bacio quella zona, Ma so che è già andata anche altra gente, per cui sono stati meravigliati, perché si mangia troppo bene in quella zona. Ma bene veramente, è tutta roba selvatica, tutta roba selvatica. La pasta se la fanno loro, capito? Perché è una tenuta molto grande, capito? Ci sono anche le commesse, capito? Lo so, ecco, per quello bisogna andare nel posto dove c'è che ti accompagnano. E quello lì stavo dicendo io. Noi la vicenda animale che si vicino girare mangiato di babau. A primavera conviene però tu, quando mi c'ha a fare quelle giornate belle, bisogna esaurirci e parecchie persone e si va lì, dai. Si va lì e si fa, ci facciamo anche un bel giretto, perché lì ci sono posti belli, posti belli veramente. È roba buona, buona anche per mangiare, invece che si può fare una scapricciata almeno ogni tanto, là. Quello sì che già si può fare, sempre che non sia impegnato io, perché sennò è mobesso. Vabbè, dai, aspetta che c'è Graziano che la disegna cosa. Ma quello lasciamo stare, ragazzi. È sempre mangiato, ogni tanto si assenta e fa mangiare le caramelle e i cioccolatini, ragazzi. Vai, lui, lascialo stare, non cercarlo a Graziano. Vabbè, io vi ascolto, faccio la barba, va, faccio la barba. Capito, l'importanza di non portare a quello che mangia troppo, Luca. Quello che c'ha la pancia grande. No, lì c'è stata casa suia. Poi ci vivo più a dare la magna che fanno la vestimenta. Infatti io gliel'ho promessa, Io non arrivo più a mangiare, a quello che bisogna fare il vestito li facciamo. Almeno si accontenta di più, Se vuole lui, se no vedrà, faccia come vuole. Avanti, bello bene. Finito là, questi cioccolati. Oh, ti dà la benedizione, Sinanda. Così. Dice che sta guardando la Magnu, si sta guardando, dice bene, gli piace, dice che se la prende. E cosa ce la devi puntare? Ha colpito la salvaguardata, dice che deve andare a fare la guerra, a cosa? Al Vietnam. Se si sta di Gaimo invece. Se si sta di Gaimo un po' garido. Per carità. Avanda da entrare la roba che è scesa, capito? Chi lo vede le fundere, si do lo va asciutta bene. Capito? A voi non buona prancia, Rosi. infatti. Vedi, pranciami la roba che se no non esci. E ti lascio senza magna. Andava giù, Mario. Eia! Così bisogna fare, lasciamo fare. Magna, magna! Eia! Il brindice, buonanì, due, ciao, Tore! Ciao, magna, dici che gli animali da più fanno la bandiera! Ehi, tira, regì, ma... No, che c'è un punto. Cosa vuoi fare? E infatti, io dici, buh! Caspita, non è entrata che non so quelli fa la bandiera, animali, e noi assistenti, vi saluto ma così che io e Gio Maria abbiamo aspettato, vero? Diglielo tu, però bene. Già non è vero, tu, già non è vero. Sicuro, sicuro. Tanto che andiamo bene. Diglielo anche tu, Bacchi. Ehi, buonasera a tutte e tre, ben ascoltati. Così è. Qui stiamo parlando di mangiare, dopo invece di pensare a lavorare invece di mangiare, diglielo grazie. E allora, Gio Maria già un'ora Magnelli, tutta la sera è Magnelli, è Pandoro, è Savoiardi, è Maci Perugina, è crostatine di marmellata. Magari ai buoni ciuppa ciuppa si è succiato. No, i signori biati, mi sono troppo dolci. L'acqua si mangia comprato oggi, grazie a... L'acqua si fa nei paesi, con l'uso bocchino. Che è buono, a piazza le segni, la città di Giamante, il camano. Oggi... Faccio fatto un bel giro. C'è di avere puro, Quattro voci di lì l'abbiamo fatto. In macchina non c'era più niente. Ogni tanto mi faceva andare in là a caricare. Ma a me la verità è meglio più a Porto Torres. A chi fai una strada, una balata, e chi mi devi fare mille lì, ma per darti i bancarelli. Boh. A me piace anche. Vizio. Da voi, tu Europi, Parenti, da voi Lidoli, Ivi della Torres, e da voi a casa. E poi a casa arriva a casa, sono tutti sciancato, e poi a salire roba ero fatto. Non mi attaccare, così devi piazzare la base di la cucina. L'ha già girato. Un paragolo robot, ma come la fai tu tuesi? E cosa? Ludi? A Luca Ludini, quando devi caricare, venendo, attaccano molto a carico e carichetti. Oh, io sono pazzi mai, non fa quasi ma questo. Li venne a fare Luca se serve la cara, capito? Oh, non diciamo, non fa quasi più, è il burro. Io voglio bene rotto se devi fermare, ma con qualche ora, a chiamare che un ripio. Allora ci siamo Bacchisio, buonasera. Buonasera Gian Maria, buonasera, ben ascoltato. Caspita, a lei ci stai tutta la sera mangiando, non stai parlando più alla radio, semplicemente da mangiare, Invece c'è pensato da mangiare, invece non pensi di andare a travagliare, tagliando un poco lei, per fare un bel da figura invece di mangiare. Toh! Rispondi tu al signor Bacchisio. Ormai siamo a riposo, Semmo, cosa travagliare? Siamo a riposo. Sì, a cena lì a riposo, va, è ora di travagliare pure. Però a mangiare si è a riposo, no? Che andiamo per l'ora a Giulia, andiamo a mangiare. Che cosa dobbiamo fare? Tu, grazie, che tu pure che ti chiede a maniera, a me. A mangiare solo e bu. Ogni tanto una camminata, una tirata. E si va avanti. Aspetta, come sta a fare del polo. Catta l'area di campagna, come ti è piaciuto tu. Catta, legge a finire. La vuoi più appetito. E cosa va a mangiare? Così è Bacchino. In campagna sta meglio, Gio Maria. e mi sia proprio la Russia e via, dopo la campagna è buona Roma stessi. Ma chi lo che gatto, si può fare niente, non puoi fare niente no. A chi si accabbarà tutto un fumo, dopo è stato un mese a uscirsi lo fiago, invece fare in campagna all'aria aperta, all'aria buona, nata dai salati di Brattamona, mi entra proprio la parte mia, chi c'ha la mezza, l'appetito mi fa venire. In campagna si può fare tutto, non si può così, la bistecca si può così pure un pescio. Come sempre abbiamo fatto, ma noi ci tolti le assalti, sai che dobbiamo fare mangioso, cucineremo la luce e poi mangiamo siamo poco e poi rilassiamo, capito? Ma chi non puoi fare niente, capa, se lo vuoi un mese, se lo cucini in un forno capa lo fiago, se lo fai una griglia elettrica un po' lo fiago mattesi. Allora conviene fare la campagna e così vedi, tranquillo, pacifico, magna, e magna pure di più, magna, bacchi. Si magna di più pure, ha ragione. L'unica cosa in campagna, fare arrosto, mangiare bene e poi assassini. In moderato, ecco, no, può farci uno, qui moderato, avanti to. Infatti bisogna tenere la dieta, bisogna tenere certa, piano piano sempre andando. Piano piano Tore si fanno le cose, piano piano sempre andando. Allora, già comincia un tempo buono, alla sommessa non migliorerà il tempo. E alla sommessa, ma chi quando si muore, febbraio e marzo, bella roba quando si impone più due. Oia, per carità, danno farà giornate belle anche in quel periodo, dai. Per cui aspettiamo anche il tempo buono. Meglio che va forse Eva, senza vento, però che non ci faceva, fatelo vento, la giusta e non andavi bene. Devi fare Eva, poi c'è bene il tio, se noi siamo Mario Mattesi, come sta che hanno passato? L'anno passato a febbraio ho fatto dei belli, belle soleggiate, a marzo arrivavi in primavera, era proprio primavera inoltrata. E quest'anno non si sa, la piglia da mare, è sempre un fendi che prima c'è del vento del maestrale e ne fa scendere mezzo mondo. Ma il casino si sia calmato un poco, Gesù Cristo ha qualche mano in busciacara. Hai detto? Purtroppo è una perturbazione che sta passando e sta portando anche neve. Chissà che non sia buono, non bruma a noi. Allora, domani dove c'è? Domani va a dove c'è? Fa le cacche goccia, speriamo bene. È già avvicino, così che auguriamo che faccia quest'acqua. Se fa qualche giornata di neve già fa bene, anzi, per le piante fa molto bene, bacchì, diglielo. Sì, se abbiamo fatto un po' di neve abbiamo fatto proprio veramente bene. Un po' di microbi l'aveva proprio sterminati. L'aveva diminuito un bel, solo che neve non li può fare. Se non era praticamente lo 56, era fatto a marzo. Sì, anni farà, vediamo un po'. Grazie, ma niente ancora sì. Allora chi sono i prendi la roba, là, bacchi? Francendie, Graziano. Le cose così, la stessa la Francia, la posso la cosa, lo stirino, io Francia, via, se no ti pago. E così, sta stirando, sta, lasciamolo stirare. Una volta finisce già entra. Non li può fare le pirare la rusica. Per carità, ma chissà a chi fuccia chi abbia roba con la velo, Rosi, oia, avanti to. Se devi branciare, non devi farvi dare, che sennò da questa notte non riesci a mangiare. Speriamo che il francese fosse in apri, però, allora può pronunciare bene senza fare l'apri, Come vuoi andiamo? Fai 27 mesi un duetto, però andiamo male, ci continua il più basso. Ah, ti scendi bello bene. Ma va a fare, prancendi e fa vedere la radio. O si può dire la radio o non te la brancia, e fa vita. Ah, così fa. C'è da aspettarsi di tutto a lui, Sì, c'è da aspettarsi di tutto, vero? Infatti, ma secondo me sarà fuori che vendendo la roba. Anche se non era già entrato. Ma è tutta la sera, mi. Aspetta che mi sono cambiato la caccia al cinghiale. E ce ne andava, c'è di 5 minuti, poi dovrò entrare. E tu, da un attimino che mi attenta, vengo subito. E andavo a dare la caccia in cinghiale. Ed è tutta la sera che c'ha ragione, capito? Non ha dialogo, no, il cinghiale è presente. Cos'è lui? Non ha dialogo. Fai forza, si fa brutti figure se quelli va a cazzo. Devo pulire sull'attenti un po', così no, cazzo. Ma non mi sei capace a pulire sull'attenti, vieni tu. Ciao, ci sono saluti, ci sono gli attenti, altro che. Ciao Bacchi, buonasera. Ciao Luca, buonasera, bene ascoltato. Capito, Graziano e Francesi, lo distribuiti, se non brucia la roba. Poi ci sei assenti. O se ci vuoi ci vuoi entra, non la fici più, c'è tutta la sera a fare i denti. Ehi, boh, che lo comprende, è buono. Ehi, lascia lo fa. Avanti, signor To. Chiamalo tu che sei più vicino, allunga lo braccio e tira di rupura. No, lasciamolo fa. Se no dopo ti fa di bicio, faggi. Dunque, vai, francendi. Quando vedi brancia, già entra. A chi se non francia, casita non mangia, ha detto tutti. O franci, fai il lavoro, se no non si mangia. A digiuno, una curibita e a letto. Ah, a me pare che sia per il computer. Se è il computer, anzura. Ti dico cosa se la mai vedi lui, ti fila a Bacchisio. Le donnine stavo guardando. Forse è andata a vedere che cosa un porno. Una magno ci stava guardando, una magno dici che si deve comprare. Per comprare sono lì. Una magno dici che si deve comprare. A chi deve andare a fare la guerra allo Vietnam. Arruolato, eh. Abile arruolato, tole vai. E allora? Catta Mattiusi dell'Albi, a chi ti andrà a fare la guerra a vero, visto? Abbi da tuo lato, Graziano, capito? Noi scartiamo il governo, e abbi da tuo lato, dunque può andare a allora si fa i fusili di canna e anda. Ah. Ma io c'è di male, c'è cosa a tracollo come ti siedo, No a tracollo, no. A tracollo di siedo. A tracollo. A tracollo puro andava in una corona se vuole. Graziano, io sono mi ha scusato alla radio, mi conosce male. Oh, è visito già. Fai la legge di rubuffo e fai la va. Io fa la bocca impegnata là, ecco base la farita. Ah, mi siamo niente di panettone. Oppure Pandoro. Un panettone di Biagi, Pandoro me lo mangio io. Un panettone di Biagi. E lo spumante è frizzante, mi piace. Ah, vedo sicuro. Con le bollicine, devo, no? Mi piace le bollicine. Ve lo compareremo. Dovevo lasciare comprare le bollicine, no? Basta che sia picchiata con le bollicine. Avanti, lui. Luca, no, non ci resta, è Tore. Lo sai, sì, in ascolto e non entra. Perché o è francese o è nel prendi la roba. O è attaccato al computer. Era un computer, l'ha detto, no? Dice, sarà bene di chi salve. ti sgribiavi a troppo e dici forse ti batti un pezzamento. Ma poi se la mettevi la caccia al cinghiale. E Luca lo chiamava e diceva, aspetta, bisogna cambiare la caccia al cinghiale. Già entrato da bui. Entrava, diceva, vabbè, no, se ne andava a mettere la caccia al cinghiale. Io dovevo catturarlo, dovia, era in posta e stava aspettando il passaggio del cinghiale e dunque dovia qualcosa di età. E poi si diceva, mio figlio, chi su grosso vi? Chi si è poca classe, il paraghisso come stava, no? Ha ragione a fare il dente. Solo il cinghiale era presente. Lo cinghiale. E vedi la campagna venendo i cinghiali. Sono arrivati i figli, chi vuole venire, va a vedere i cinghiali. Da te! E in campagna sono, non è da me. Nella campagna arriva a vedere me, nella zanca, nella zanca abbandonata, e si vede gli animi che vivi. Ehi, cazzo a me! Io mi sottare alla casa di Luca, è un canale proprio. Mi fa la Monte Bianchino, anche se gli asili, no? Sotto il Monte Nuovo. Tutti i cinghiali, a rotti, dici, fa la guerra, dici, di cinghiali. È pieno di cinghiali. Catta, tutta la frutta si sono mangiati. Anche sotto il Monte di Luca pure mi sono. Ehi, sotto il Monte Nuovo, no? Luca c'ha delle casette calate, sotto le casette calate, per la parte, no? I bisogni asini, bisogni eccetera eccetera. La notte fa, tutta chi mi fa la cinghiali. Per magna, chi mi fa la coltivazione di orto, non può fare a fare la magna. Ma chi va, il marito, questo vicino di campagna, a cazzatori, e ne ha messo zinco la Comanzano. Questi sono mostri, sono mostri. Io sono commissario invece in campagna a Camale, ma ho avuto tracci di bidimanni. Non so come sono entrato, mi sono qualche pastore tedesco. Comunque che male succede, sono entrato qualche pochito. Sono i fratelli di truppo, si sa visitare pure la città. Pure la città sono visitati, per cui bisogna stare attenti. Sì. Chi mi vede, il figliolo è stato in questa zona, ha pigliato la pila, la luce, la baidette, il un mazzone finita, un'altra romata, catta, ma anni minori, e poi immaginare, catta, io mi sono tra un po' di dopo, un'altra romata che è finita. Quando le fai nota è cazzo di caipe, solo quando si trovano che vengono a rompere il palle, e chi si sono mari? Sono mari, se ne più peggio, avanti tu. Beh, non ci sei buono a mettergli un laccio per prenderli. Sì, se l'occhio lo prepassa. Oppure domani voglio guardare a vedere dove me la sotto c'è fatto il buco. O il cane o il buco, uno dei due si vede mani. I cani miei sono minoretti, non ne passano, al buio in mezzo alla terra travagliata non prepassano. Sì, infatti, o è cane o è cinghiale, uno dei due. E guardare dove è il buco e guardare bene cosa ci ha fatto. Il cane, il buco nella rete non te lo fa, però ti scava sotto. Però il cinghiale, il buco nella rete lo fa. Bisogna vedere. Perché la rete arriva fino a terra, c'è il muro in pietre. Alto 60 cm e però la terra la rete messa in terra proprio appoggiata a terra per non uscire i cavi e inizio domani mi voglio pigliare la presa di fare un nido dello recinto di si vede anche punto infatti più che così non puoi farmi controlla se non gli metto un laccio gli metti a vedere se lo bigli ma se pure che entra dentro gruppo da poi si sarra con il laccio. Cioè, dove si in campagna farò fusili, questa cosa lì è un colpo di palla a capo, non vedo quando più a lungo. Sì, ma quello fusili già lo sai che si intende il colpo, ma se con il laccio non si sente il colpo. Sì, vabbè, ma il lavoro ha fatto e via, lo sai che ha pigliato, perché con il laccio non se lo prendi, ma non è morto da vedere se musicheggia. Invece col fusile fica tranquillo che è a terra. E purtroppo bisogna stare attenti anche se quando entrano dentro. E ci ringraziamo il reviso. Grazie. Insomma, tu l'hai fatto così. È sempre così, ogni tanto entra, esce. Te dare il zinco che è finito il travaglio, capito? Prima lo computer, dopo il telefonino in internet, dopo non so, la televisione che fa la caccia al cinghiale, dopo ti sei sentito a dire chi sono in trasmissione a Roma, o è prancendi, o è combinato a un'altra cosa, è tutta la sera così. A me mi pare un po' strano che sia ancora prancendi. Ma si intesa manco Rosi, se no Rosi si è intesa a posto, si è detto brancia, falla lei, lei si nutta. Evidentemente Chino Ferrucci magari ne approfittendo ha mai dato di cose, buono, capito? E non approfittando di Chino Ferrucci. Anche Rosi non muore sull'attento ogni tanto, Ecco, ma chi so, allora vai solo e ti approfittendi. E come ti risulti quando la gatta va a camminare, come si prendeva? Profitta così, quando lo ferrosi, capito? E poi ha mai dato tutti questi fu. E quando ferrosi invece non lo può fare. E no, è monteso a lenta, sviato, Avanti, ce lo so. Purtroppo, è ritirato, Chissà cosa offende, boh? Se non la posso pranciare. Ho offende il bagnato con ciuccio. E vabbè, la vendi e poi ti faccio stare. Ho giocato con Lugani. Ho lasciato mezzo un barolino a Lugani. E pure questo può essere offendere. E ci offende pure lo vedi? Se diciamo un barolino è chiaro che deve fare pure lo vedi, no? Dice che sei piccato la giustizia, però poi lasciare tu, a chi care, dice, non te ne può dare, ecco, e qui lo lascio tu. No, male siamo andati, come che Graziano non si negava più fedi, o ci sentiamo, ne sapremo la gianna e non avremo più entrare, oppure bisogna poi lo in riga. Così. Come te, Gio Mari? Non l'hai compreso, vabbè, altra volta. Che se ci ha messo un bannolino a Lugani. No, gioco, se ne c'è un bannolino. Ma mi pare che si è attaccato al computer invece. Sì, se ci ha messo dei bamboli. Sicuramente. Infatti non se lo fa. Lui ci è passato la bandaccia sera, così che... E solo, e la approfittando, era tu vicinito. E io sto prendendo il ricordo computer, vedo un poco. Cosa vedi è strano, capito? Ho sto prendendo le immaginette. Graziano. Bello bene, aiuto. Ma chi sei, quel sede si è ridente. Io penso invece sia prendendo il computer, prendendo la catena esotica, fa fare la calotti. Ma, sentiamo allora, vediamo un poco. Allora tu, e quegli animali, bene, ti sono trattato tu. Ma passo a dormire tutti e due, a sonno profondo. Catta, che non si può nel capo di tutto questo che entra in mano, chi dà? Tutto mi arruineggia. Intanto le mani che la mi fa mettendo, un tal tratto si è parito, ci arrendi, torna qua, torna là, boh, fai tu assertaccio, arrivato l'anno, un ricane, ed è arrabbiato, ed è per le pulizie a chi non avevamo inteso più. Mi ha toccato il mangiare con un paraglio tappetto di uno di questi tappetti di gomma, manni. Mi ha toccato con un paraglio, anche se no, ma ne è fatto dallo tappetto che era tutto bisciato. Ma poi per una asciugamano in terra me l'ha pisciato Roma a testi. Sì, fermati, Pregali. No, uno già è bravo, non me ne dà molto fastidio. Mi dà fastidio un po' di voce, età. E giocherellona, ma tu che sei di acciappa, di fascia. E i tuoi come sono, ma chi? No, i miei sono bravi solo. E il caso di un busciacca nel caso, Vittorio l'ha visto. Siamo in origine, no. Non gli dà fastidio. Poi la manna passa da 331 a morì, 14 anni, e penso poco tempo di campancola va. Quando sono bravi andare, ma quando comincia a far macello la questione comincia a essere un po' bizzanti, ho noto. Infatti, ma lì sta bene in campagna, la lupa sta bene in campagna. E Dolomascio già verdeccio a Tinillo. In caso per riesci a tenerlo, ma che è bravo, non me ne dà fastidio. Che non rimane la rasura, la fastidio non me ne dà. E lo scendo sempre, lo scendo. Anche 4, 5, 6 volte al giorno. Proprio si butta pure in giro. Fastidio non me ne dà. Cosa mangia questo? Crocchetti? E in mezzo gli metto anche della carne, gli metto. Gli compro dei barattoli di carne per loro. E gliela metto in mezzo alle crocchette. Oh, ecco. E già va bene, già va bene. E beh, tu Bacchì, le paste gli riporti la mattina? È chiaro, non ho le paste. Loro sono abituati la sera, mangiano la sera. Gli porto il riso con la carne. Riso soffiato con carne. E boh. Capito? Tu hai messo il peruno e arrendo la montagna mi sono tre. Si mangiano poco, mangiano. E il resto che avanza se ne mangiano i gatti o le cornacchie. Fate le pulizie alle legame. Un attimo, ma chi che adesso un attimo? Sì, io. Hai capito tu? Fate le pulizie dei cornacchi. In campagna sì. Campagna riesce a gestirli bene, riesce a gestirli. Infatti se abbiamo avuto un pezzo di terreno. Abbiamo buttato in campagna, avrei lasciato in campagna, l'avrei lasciato. E quindi in mezzo al lavorato non si passano. Fanno tutto il giro delle piazzole. Poi che mi capiscono il volo, quando mi vedono incavolato, alzo la voce, poi mi accorgo in mezzo all'anche e raccuccia. No, questa, la lupa no, la lupa ti passa in tutti i posti, sicuramente. Però... il bianco no, il bianco ti rimane sulla strada, ti rimane. Più calmo è. Più calmo, magari anche più grande di età e dunque capisci ancora di più. Sì, quest'anno fa, a giugno fa, 4 anni fa. E, la piccolina nelle coppie 4 anni, a maggio, e la madre dovrebbe farne 14. E già signorinetta. Infatti domani devo chiamare il veterinario perché la devo portare a fargli il vaccino che mio figlio aveva fatto già a novembre. Ma la piccola? No, oh, il maschio. Il maschio, deve vaccinarla ancora. E bisogna farli, bisogna tenerli conto, uno si prende l'impegno e lo fa. Perché è un impegno grosso, guarda, fanno sembra che sia un giocato, invece no, è un impegno. Sì, quando gli ho detto a mia figlia, non l'ha voluto indignino, che è un impegno grosso, e ha detto, non puoi costringere gli altri a prendere il cane, no, io me lo tengo io, sì, come ti fai? Infatti che avevo un impegno grosso, vivo a lasciarli da soli, non si può. Ma a lei ti danno da fare questi cani? Prima uno lo poteva gestire, e due, aspetta, niente da fare. E infatti due sono troppo, uno finché uno andava riesce a gestirlo, ma due sono troppo, mi ha detto Buraedo, ha detto bastava se te ne batte uno, non due, due cosa ne fai? E uno adesso lo lascia a te e uno se lo porta via. Non saranno, raggiunto per Sassizio ugualmente, ha giudito. Lasciarlo dove lo porta da questo qua, che gli ritiene, Ah, dite che non ne voglio più cani io. Lo sai che, diciamo così, se te lo lascia uno ti fa anche compagnia, perché almeno c'hai qualcosa da fare. Sì, c'è la compagnia, è tutto quanto, però quando devi andare a qualche posto non lo puoi lasciare da solo. Solo che se uno decide di andare a fare una gita, una cosa non si può andare perché c'è l'impegno del cane. Oh, mi sono rientrato, eh. Sì, ok. No, ma chi? Le cose, infatti, che non puoi andare a nessun posto e devi, infatti, mi agito. Una volta che c'è il cane, hai venuto di vedere, a me. È entrato Gian Maria, avanti Gian Maria. Un attimo, ma chi? No, ero io, ma chi? Beh, ci picciappa. Avanti, lo riprendi. Forse abbiamo parlato in due. Bene, siamo andati. Ho detto che il cagnolino ce l'ho pure io, è un impegno, dai, ma alla fine non è che mi crea, non mi crea problemi. C'è uno Yorkshire, ma alla fine è un casino perché lo devi portare, se non c'è tempo, ma rischi di andare al lavoro, è visto. Bene, io ce l'ho in campagna, ne ho due, Yorkshire, madre e figlia. Sono fastidio, non te ne danno, sono abbastanza mansueti. Sono due giocorelloni, una quasi 14 anni, una compie 4 anni. Ma sono due giocorelloni. Sì, sì, sì, ma quello che sto dicendo io è l'impegno, io ce l'ho in casa. Quando non hai tempo, vedi, stasera non sono manco uscito, perché sono qua. Di solito salgo per portarla, vabbè, la porterò più tardi. Quando vado via da qua. Vabbè, bisogna portarli, perché aspettano per fare i suoi bisognini. Aspettano, poveracci. Il settore li porta ogni mezz'ora e dunque non c'è un problema. No, ogni mezz'ora no, ma la mattina alle 6:30, poi a mezzogiorno, le 5 e poi alle 9:30, 10. Sì, ma chi ogni tanto caricheggia in casa, non sempre, magari non ce la fa e scarica in casa. Sì, ma no, non ce la fa, ma sono forzati, capito? Aspetta, e poi alla fine devono mollare, perché anche loro ci soffrono. Già lo so, e vabbè. Ma non è già piccolina, a me cani grandi in casa no, ma assolutamente. Sono contrario, pure. Ognuno può fare quello che vuole. Se è piccolo, tipo il pincher, così, va bene. Cosa? La taglia piccola me lo c'ho io. Addirittura la figlia di questa cagna qui è ancora più piccola della madre. Peserà un chilo e mezzo, non ho preso un chilo e mezzo. È un giocattolino, sta nella tasca del scappotto. Vabbè, dai, gli animali anche loro hanno il diritto di vivere, poi c'è gente chi l'abbandona, io non l'abbandono. Li abbandono prima io, prima di abbandonare lì. Ah, che ci vuole coraggio. Io nel mio trascino la campagna, in estate ne vedo tanti quei cari poveracci, ti guardano quando passi, richiedendo la limosina. No, abbandonarlo no. Non le prendi, non hai problemi, invece no, se li prendono, si giocano quando sono piccolini, poi quando diventano un po' più grandi, in campagna abbandonati, a secca d'alluccio, avanti to. L'anno passato, Nagiobicaduno, era bellissimo come cane, solo che l'ho portato al veterinario, invece c'aveva il microchip ce l'aveva. È andato a Dugaira, ha chiamato la polizia, i vigili urbani, ha chiamato un padrone, la cagna era scappata. Ma con il principio non scappi, ce la vieni a rovire, capito? Ce la vieni a rovire e ti trovano. Se no che lo ammazzi, allora non lo trovano, però se il cane è in giro ce lo trovo. Infatti, tempo di un'oretta, è giunto un padrone, ci ha pagato la contravvenzione, ci ha pigliato e se ne è andato con la gola, è do buru. oltre che ha chiesto per quanto doveva dare, perché l'ha trovato e agitarsi perdere l'asci. Se l'ho portato perché se c'aveva il microchip sapere di chi era, perché altro. Poi ci avrà messo i manifesti e li ancora. Li trovano. Però non trovarlo e dargli il cane indietro, trovarlo e quello lo lascia al padrone, non al cane. Al padrone vuole pensato. L'appello del, come si chiama? Del padre della mia ragazza, è scappato dalla campagna ed è sparito per 2, 3, quanti giorni ha mai? Poverino, hanno 2 anni, curto, l'anni. È bravo questo cane, è tipo cane da cane pastore, no? Maremmano, no? Un meticcio, però di taglia grossa, no? Ora arrivo, se tu lo vedi, c'ha la zampa, invece l'hanno sparato, boh, l'hanno picchiato. Ah, è tutto insciancato, va. Sì, no, insciancato, aveva insciancato lo padrone. Quello ce l'aveva prima, poveraccio. Cosa se la prendo con le bestie? Non le prendi, non ti piace avere, non le prendi, lascia stare a chi ce li ha. Invece no. Invece facciato Graziano. Ehi, buonasera. Ehi, tu devi insciancare. Chissà che è che si imbecille. Ma secondo me, guarda, ha dei buchi nella zampa posteriore, cioè anteriore, sembra sparato con la carabina, boh. E allora qualche imbecille l'ha sparato, se c'è i buchi, e non gliela puoi guardare la gamba, magari c'è i pallini dentro, o lo porti dal veterinario. No, la ce l'ho pensato. Vabbè, comunque, cioè... Però evidentemente l'hanno lesionato perché è giocato sempre. Non so cosa abbia combinato, questo non lo so dire, perché è scappato, chi se ne è uscito, cosa, che campagna, avrà fatto danno, chi lo sa. Oh, ma chi? Io mi devo assentare, sta nella prima signora, ci sentiamo dopo. Ma fatelo così. Sicuramente qualche imbecille. Fatemi che lo bacchi. No, Tore, stavo andando a prendere la signora adesso. Ha detto vai. Grazie, non è imbecille, no. Un coso, uno che lo fa a capo. Forse c'ha più di testa il cane che lui. Ma, senza salvezzo. Magari se lo devi appoggiare, va di a su te e devi appoggiare. Non c'è bisogno di tirarlo, non c'è, per carità. Già ci sono quegli imbecilli così, già, non ti preoccupare. Ma se buco piccolo vuol dire carabina, ha sparato a funghetti. Perché se è stato un fucile l'aveva pigliato una rosa del pallettone, se l'aveva pigliato qui di gol, aveva... non aveva preso la zampa, l'aveva preso tutto. Già ce n'è gente scema, non ti preoccupare, va. Va bene, Tore, andrà a pigliare la 50, ok. E allora, Luca, mangiando stai? No, non ho già fatto io, grazie. Adesso vediamo un po' a cena se ho fame. E se no, quanta rinuncia, non mangio nulla. Ma quando arrivo a casa mi mangerò, mi bevo uno di quei cosi, così, fermenti. E niente, poi ce ne andiamo a nanna. Però per quanto riguarda il cane non si tocca. Gli puoi dare un colpo di giornale così, però non a trattarlo, cioè a picchiarlo a bastone. E che non li... La gente non li vecchia io, se no vedi... Spero che i cani li odiano. No, li prendono, quando sono cuccioli piccolini a giocarsi, giocano, giù, quando lo fanno un annetto, arrivano all'anno, aiuto, o li prendono a calcio o li abbandonano, regalano, fanno da qualche due in campagna, sempre che li vogliono, per abbandonarlo, se no non li prendi niente di animali, li lasci stare così, e come fanno i gatti, la stessa cosa. Adesso ne hanno portato uno in campagna, di gatto, l'hanno mollato davanti al cancello. Ne ho due già, ma quell'altro è già da cancellare. Ma solito quando arrivo con la macchina, viene in mezzo alle gambe a scassarsi perché vuole entrare. Io faccio entrare, ma lui si deve tornare a uscire perché ho paura degli altri gatti. Quello è il gatto che è entrato da solo. Eccomi qua. Sai cos'è? I cani non si trattano male, no? Se va a picchiarli, gli spari. Certo, se magari ti entra un cane in casa, in campagna dico, e ti sbrana i tuoi cani, allora lì c'è una ragione, e allora devi intervenire. Però noto che picchiano anche i cani bravi, sai, quei cani che trovi in giro così, no, che vanno a cercare a mangiare, o li prendono a colpi di bastone o pietre, insomma, cose così, non si fanno queste cose, mi dispiace. Adesso un animale come noi, né più né meno, sono protetti e passano casini, se li sgamano magari che li stanno picchiando. Avanti Gio Mario. Cazzo, avevo freddo io. E ci dicevo, sbacchia la macchina e appunto si prestava quello per far partire la macchina. E dovevo fare la forza io. Ve l'ha già attaccato, correva e ve l'ha già fatta partire. Ah, che freddo, lui freddo mi ha pigliato io. Sì, no, che gli ha beccato, a voglia. Vabbè, avanti, grazie, ripeto. Ehi, basta va a pulire la cuffietta, non ha più botto il naso, non sei per freddo in carriera, che pare nei lintori. Boh, diglielo tu, Bacchi. Ehi, così, tu immaginati un po'. Sbloccato c'è Bacchi. E non c'era né acqua né da mangiare, e quando pioveva era sotto la pioggia, era un bagno di animali. Un giorno gli ho detto cosa, mi ha detto a farmi i cavoli miei. Ah, brosciotto, impari. Ah, io mi faceva pietà, quando passava vendeva il cuccio a fianco a lui, a rubare il droverno. Ah, è stato variato io, giorno e notte. Si chiamavi la forestale, l'aveva visto. La forestale dovevi chiamare. No, dice, se no non fanno guardia alle pecore, perché arrivano le volpi e si mangiano le pecore. E l'ha cercato che non si pettili una tambullana, una cuccia, una marasù che si rifaria di faceva. Una cascetta, cosa ne gustava? Mezzo imbecille, chissà, proprio. Come te che lo cane non si rubi le arma a te se lo prendi, già ti manca. Già ce ne sono tanti, l'idea li dà che ne conquisto un figlio, pure ne fare nell'aria, né cuccia né nuda. Quelli sono imbecilli, sono. Anche il cane, io vedo che in campagna i miei cani, quando vedono che ti vanno si sentono e sentono la cuccia. Rimane difficile con un capo a baitelli sempre a destra e a sinistra da 30 la cuccia, però fuori non ci rimangono. No, non ci rimangono, no. No, io i miei c'erano la cuccia, però c'è il recinto, c'è un recinto, sono 4 metri per 3. E sopra il recinto ci ho messo il tetto in plastica. Se piove, neanche nel recinto si scende acqua. E la casetta è fatta che in costruzione è fatta a blocchetti e il tetto è coinventato anche, vatelo conto. Anche i cari miei in campagna c'hanno la cuccia, una di quelle in plastica, grandi, che avevo comprato, e una è fatta in legna, però sopra la gabbiatura gli avevo messo il catrame con due strisce di tavola per non staccarsi, ed è rimane asciutta lo stesso. O se no, se sono dalla parte dietro e comincia a piovere molto, se ne entrano dentro dove c'erano la casetta dei maiali, lì, che è fatta da padda, c'è anche il muretto alto, e rimangono lì guardando dalla porticina, sino a che smette, ma pure oggi quando vedi che più vedi, se ne andano a tapparsi, mica tanto di mettere la campagna sotto all'iva. Quelli lì sono gente ignorante. Ho senso ira. Dio si era. Tante volte gli ho detto, no, devo fare la guardia alle pecore, se mette la cuccia si dorme. Grazie troppo, mia. Tu hai sei dormito, avanti San Marino. Beh, io sono sempre in casa, sono tranquilli e non fanno problemi, Boh, dalle mare comunque, dalla ciappa loro con dei quasi quando lo so per neve, dai, ma chi? Legati, Gian Maria, un palo di ferro con la catena, con due metri di catena. Faccio più il giro del palo, non c'è, riparo non ce n'è. Mettimi una cassetta, una tambulana esilata, una maledizione, una badetta, che cosa ti dica? Che riparo tu? La baracqua darli? Nulla! Prendeva che tu cucci ci ha appoggiato al baro. E ci ha liato, ma ti fatti, che male ha fatto un riparo? Ci pigliareva il buco. Sì, bisogna andare, figlia, a tagliare la cosa. La dinaglia, tagliare la catena e fate scirugami. Però a me sta mentalizzare, c'è niente che è fare gli ratti un po'. Se devo fare l'antica, so. Avanti tu. Ehi, oh, bello casino. E c'è freddo, siamo lì fuori. Atta. E poi no, qua c'è la stufa accesa. No, frate, via il giubbotto. Però capita, da Lucas, dallo freddo. Ah, tre ore finimo. No, se lo per baciare gentile che mi ha fatto una nostra voce, allora per forza, non mette faccio questa attrezzo che fa di mettere la macchina, no? L'attacco la metti al massimo e faccio subito. E per toccare pare pure la prolunga, capace su cosa fuori, e faccio da subito bene o male. Però mi ha ghiacciato, Ho capito. Ah, vabbè, qua già si sta bene. Adesso, poi, se non si spegne la stufa, là no, si deve coprire. La sua casa è seccata già. Ora magari poi è peggio, da casa lo freddo è peggio, capito? Magari non si non per lasciare la stufa accesa, magari lo lasciate più fresco e andate più bene. Ma cazzo, mi tocca essere un gatto. Però non li voglio fare manco, là. Quando si può fare una cosa bisogna farla e basta, vai. Ma cos'era che se la macchina di un figlio non fa? Cos'è? La macchina del tuo figlio non fa tutto. È una macchina! Una macchina, cazzo, un appunto! Cazzo! E poi se la sta mesi ferma, cazzo, la poi andare poi in marcia non si batte. La mattina si. E ogni tanto pone in marcia la macchina si disincarica la batteria. E allora non è passuta. Toccato per forza. E poi non la vuoi finire a fare in marcia, ma l'ho fatto ultimamente e poi in marcia e faccio dalla centralina, per forza di tu. Se l'accelerate tu quando la porti in marcia, allora chiaro che brucia la centrale, perché la sta al minimo, già passi la macchina. E se non è stacca i capelli della batteria, se la tiene molto tempo ferma, da poi quando ricevi para si tratta di capelli. Con la 10 stringe i dadini e pone in moto. E a chi viene male con i cavetti? Però è attaccato i cavetti, chi sa no? Basta attaccare fino alla corrente, chi se si mette in movimento e ti carreggia subito al massimo, capito? Ma lo so perché la bevo io, a voi mi sei imbarrata l'azzurra in garage, non funzionava più. Lo smontate all'interno per una batteria. A Cipriate sta giù un patuto. Questo è un box per il fritto. Scatta. 125 euro da Bricco, città mercato, l'abbiamo abbigliato. No, è buono, catta. Ha del buon ammasso, 3-4 ore, la fai mettere la fase massima, la sì. È potente, Ma all'interno c'è una batteria, non ti credi che vi sia questa cosa? C'è una batteria. Il mio era sempre fermo, poi il caffè mi si è imballato e ce l'ho buttato. Però finnano le mie batterie non all'interno, lo finnano. L'hanno attaccato la radicaletta della corrente, capito? Ma è attaccata la corrente e se te la fai così, capito? No, il mio, lo lasciavo sotto carica in garage, quando era carico lo staccavo dalla corrente. poi si mise via la tara pura, per dire, non volava in campagna, pure in moto la macchina mio cognato, attaccavo con i sabetti che c'erano attaccati, lo accendevo e metteva in moto la macchina senza correnti. C'è portatile. Ma questo non è portatile, grazie. Chisto da base e basta, e altro. Vai a fare la prolunga, attacca la corrente, la box c'ha i cavetti rosso e nero, attacca la batteria, attacca la corrente e ti batti subito, capito? Ah, ma allora è come se chi su minore che fa vivo in garage, ma la moto, ma la moto l'avevo comprato, quando va via la moto, oh, era piccolino il mio. Funzionava direttamente attaccato con la corrente e poi attaccato i capelli e già pure il motore, ma se spero era piccolo per la moto. No, quello che c'avevo io era giallo, una maniglia va via e due capelli, vedo l'accendisigaro pure. E quando c'era la lancetta, manometro, e quando era di meno di metallo attaccava e scaricava in garage. Poi l'ho provato una volta, pure in moto non funzionava, l'ho messo a caricare e non caricava, l'ho svoltato, all'interno c'era una batteria. No, questo batteria non ne ha, capito? Questo carica anche la batteria, carica anche la batteria, però deve attaccare direttamente la corrente. Questo fa 6, 12, 24, pure un cambio fa di batterie. Abbiamo provato pure l'82, ha fatto un muro in marcia. È forte, ti so che è forte veramente. Cambia un po' al massimo, capita, è pure in marcia, però devi lasciare la macchina 5 minuti per poter entrare un poco di corrente alla batteria. Ah, lo prima colpo basi. Ehi, no, io ce l'avevo lo stesso, era rosa, una cosa del genere. E dentro della batteria, al primo colpo portava la macchina. Dai, lo trattavo, se ne è parato, boh, non serviva più. Secondo me c'è un la batteria, cucciava più la batteria che l'ha tretto. No, io che buono credeva che fare la batteria, poi ce l'ho. Fare due condensatori, cazzo due bidoncini da 5 litri, che drento è, ma che asso me? Asso è 30 e 40 centimetri, e asso sarà 70-80 centimetri, capito? E dentro bisogna questi due condensatori che rimane sempre in carica, rimane, hai capito? Forse pagisce, ma la batteria non finna, non finna. E poi credo che era fare la batteria, invece la batteria non ha, che su tipo, capito? Era un altro tipo, non riuscivo io arrivo alla batteria a Trento. C'era la batteria, poi c'era l'accendisigari, c'era il faro, e più attacco un jack per attaccare una lampada. Era un motore bassissimo, però quando non lo trattavo, che era fermo, quando l'ha trattato non funzionava, l'ha già preso, ha preso la batteria, e tu hai comprato la batteria e si è avviato. Poi anche che cosa comprava la batteria alla missione, e tu l'ha fatto tutto. Avanti, grazie. Al telefono. Ah, ma tu sei bagno di panettone, altro che telefono. Diego, vieni. Oh, Macchi, grazie. Luca. Dimmi. Al telefono, ma sono scusate il telefono, non vi ho potuto avvisare, dai. Al telefono anche io, Macchi. Oh, sparite tutti, hanno ragione, li abbiamo lasciati come... Ma non potevo, devo andare a rispondere al telefono, guarda, come facevo a dirglielo? No, io l'ho detto al telefono, ho detto vabbè. Ma perché stavo parlando, io non volevo disturbare, capito? Ehi, se sarà spostato, bacchissimo. Ehi, vabbè. Se dovessi entrare, già sono qua, dai. ok. Ehi, Tore è andato a pigliare la 50. Sì, anche lui è impegnato, per cui... E vabbè, se vuoi entrare, l'ha già acceso qua, capi? Se rientro è acceso qua, fino alle 8 lo lascio acceso. Ehi, se te l'ha spostato sicuramente. Sta prendendo la Rosaleco, tu è la Rosaleco. Sicuramente sei impuntato. Beh, ha visto che non c'era nessuno. Certo. Si è portato attaccato. Ma, via, perfetta. E cosa vuoi fare? Cazzo, siccome è bene o male l'ho sentito, è la mia sorella che ogni sera mi telefonando, alle mani e oggi, tu ogni sera mi telefonando, dici che ho un'influenza là, e tu non è che mi ricordi l'influenza col telefono, non telefonare adesso, finché lo guarisci. Ah, è influenzata, penso che... E pure chi vive un freddo cieco in Italia, non credo la psicata all'influenza. Ehi, Mazzani sera telefoneggia, Mazzani sera, anche quel cazzo, almeno parlo, dice, almeno parlo, perché sola, capito? Beh, se fai compagnia telefono, la treccia a sinistra. A chi ha la paletta non c'è quella, è sempre attaccata al telefono di casa. Niente. Si intende, Sara? Già si intende, già si intende, già. Ma diceva se pigli un PMR e la strada giù di inizio. E non voglio in prete, la puoi fare di lei. Aspetta. E anche qua il telefono squilla, molto spesso. Oh, mia sorella. Oh, miei nipoti, cazzo, mie figlie, cazzo, c'è sempre delle fuori, oh, cazzo, fredda, farò delle cose più busciacca, da no, più sopportabili, così che rispondi sempre, cazzo, voce magari è da impegnata, è chiaro che me ne beso, rispondo io. Io lo stesso, ma è da là, se si butta in camera la rete, si rubano il rubetto. E per le croci verba, a parte le gelati fu, quando squilla, c'era lì, se lo prende direttamente lì, un bel riporti, lo si riporta, devo andare io a ripugnare da poi fino a ricco. E la matta si cosa, o me figliore, o la giuretta, o il fratello, o il nipote, e ogni anno è così, o me giuretta, tante di ore e ore e ore. Il telefono di che ci vuole bene, così che è meglio che sia così, è andato più vecchio il telefono, e prima, di qua 60 anni fa non vedo che si cose così, e se non andavi a luogo non potevi fare zani, perciò oggi da abusare ma te si fare un cazzo male e biati, così che il progresso bisogna lasciare andare avanti. La remo e si udrà temo, o no? Isso sì, ho se loro cellulare mio, ogni tanto vado bli bli bli bli, prima cadia sempre a bagnare, ma va non me ne ha fucchinita. Cado rubi le mani le casse le giudizio e non rispondo a nessuno. Mi ne la ne mani e ne lo salvezzo. Ma chi? No, non lo sai ancora. Purtroppo sì, però la tecnologia è avanzata un bel, tra cui la remo si fa di comodo e l'ultra temo e gli dà ragione. Poi se quando diventa mezzo sotto, burale, si intende un po' che niente. Cazzo, peggio ancora, se ci vuoi, mi lasciate il telefono. Magari perché magari c'ho con famiglia, o so famiglia di lasci, magari non intendo malissimo, capito? Magari, ma se gli apparecchi si tocca tutti i tutorial, io li intendo. Ma se ci vuoi che come ti siamo fatti da là, se sono la lista di casa non li intendo, oppure telefono mio. Mi la già dato, se ci vuoi non li intendo, cazzo. Ma anche a me mi capita così. Va di la cadena, squillene, figlia. Per la vibrazione, vai se non lo insegnare, l'ho visto la peggiore insegnare il suo rumore, ma che bella che era un vecchio. Grazie da padre e padre, se c'è voce magari commette se c'è tanto a pigliolo, lo pigliolo, tocco un coso del volume, l'abbasso, a di me a buzza, da fuori non si intende, beh puzza, a che se c'è voce ma te se cominciando a pigliarlo, tocchi e abbasso il volume e se c'è voce non si intende malissimo. No, ma un paio di volte a me mi butti e sto contato e si mette la suoneria silenziosa, non è base squilli, base un rumore e bu. Anche il mio prima vibra, dopo suona, capito? Però il baletto si verrà di bucciacca in terra, ma si è sopra il comodino, va verrà di sopra il comodino, quelle, si vibra, non intendo nemmanco, si suona sì. A che visino, ma se mi metti che per esempio il ladito all'ingresso è sopra un mobiletto, non lo intendo, non lo intendo lo mio, a chi non è che fa già volume alto su telefono, capito? Però se aveva inteso bene, l'aveva inteso sì, ma a una lezione ho messo socio, boh. E poi dirà parecchio, non fila, tanto sei in casa, io qualche volta me lo metto. Me la giocavate, sei nocchi, me la provate a rimare alla via di tre ore. Cazzo, poi mi sono questo fatto che mi dava la faccia e adesso che mi dava la faccia, mi dava un burro a lei e vi so così che mi dava fastidio. E me la giocavate, sei nocchi, andate a me. Quando ti raggio qui si è stato peggio, cazzo, come c'è? Tutti quel paio di niente, subito li tendo con chi, a chi sono potenti, però, non mi piace, Graziano, non mi piace. E non sei dentro casa, chi è che cazzo lo vede, ma io qualche volta già me lo metto, certe volte magari mi intendo la recita fatto, chi non si scappa e non intendo, allora me lo butto. Ogni tanto. Sì, ogni tanto ve lo bocchio. Ma io ogni tanto, se io metto la treccia, se mi dà un bene, perché mi tocca le salvacce, no. E a Lucati evidentemente si scioglie il cerume, bocco, mi si fa la treccia e non intende nulla. La giù si c'ha un dito così soccendi, poi lo posso usare toccando, ma con il fiocco, ma chi fa un passaggio stretto, e ma le brubite tocca con il fiocco, capito? E tre volte mi devo fare maciuffo e mi pulisco per fare maciuffo, capito? Ma con contro fiocco no, lascia la lametta e fa l'imbocizione e non imbocci toccare, capito? Alla strabaccia già zoltite e già lo sai, e per cui la intendo in bocca che sarei sinistra, capito? E beh, se ti porri il bottone la luce, forse si scioglie, non rimane il bottone. No, manco un bottone. No, se ne risai la leccia, a pure la leccia il cottone, se ne risai, ma chi tassa nei beluzzi il cottone, capito? E impegni sempre a Trento, capito? Attira, la chiurume l'attira il cottone, come se fosse un cotto fiocco, la stessa cosa, capito? Non se ne risai, perlomeno, a me mi hanno consigliato a non toccarne, a non usarne, capito? A pigliare così, ho questo spray, ma questo spray mi risciugli per me, capito? Me lo fate fare, non me lo fate fare a chi ha questo spray buono, ha pagato un vale 25 euro e non fate niente, capito? Vuoi fare un maciuffo, con la cosa, vuoi fare un maciuffo, piano piano e mi pulisco così, oppure quando mi è piena, mi posso impagnativo, l'appuntamento me ne faccio pulire o alla mutua o lì alla clinica San Pietro. Ma lo faccio per pericoloso, lo sa. Perché è pericoloso? A chi? Ma se ti si fa la biagio su, ti voglio qui. Oh no, io mi sento un litro matano quando mi lavo la faccia. Il migliorino, bene, mi una mano mi dà pure che la presento l'udito e me lo prego così. No, no, fa maciuffo, non si attacca alla coda, si attacca lo maciuffo, capito? Perché è stretto, bucato, e il cinume se ne va dentro questo buco e riesci a... beh, certo, devi spingere, devi solo girarlo piano piano, piano in modo che si attacchi, dopo lo togli e te lo pulisci e lo ritorni a mettere, capito? No, no, io me ne posso con un dito, con il mignolo, mi riposo la rete, tieno la mano, però così da presente un dito, mi risciuco, se mi torna a entrare, e già è fatto. No, no, io faccio un passaggio stretto, il passaggio è stretto d'orecchio, capito? È stretto, stretto. Se capi un poco di conteggi, ti puoi immaginare, non fa la brutta all'interno, non fino a fase farà. Ma immagina, quello dice, io con lui così, magari si viene fuori così, ma proprio in fondo lo entra, no, la lugna. Invece quello fa, ma c'è un po' piano piano, gira che ti gira, fa il desiderio, riesce a ciapparlo e a cavanirlo, capito? Come ti fai con lui? Oh, già. Eppure mi riburo così, ma cosa fiocco mi ha detto di no? Col mignolo me le pulisco. Oh. E lì tolgo lei per il balmo della mano e mi dà pure. E sento l'uso. E forse questi sono stato lavandino con le vagorrenti. E me le pulisco così. Ma però il contrafiocco non è uso. Oh. No, no. Una volta me lo laggio della strada, di mai me ne faccio scilluccio, mi giusta la doccia. Oi! E fatta, a me pure, io forse che mi tocco la legge che mi viene la doccia a me. Perché a tutti fa così, fatti di pulito e ti fate venire la doccia. Sì. No, a me lo conto più come l'ho proibito. Cada via la lottite. Mi dico sempre, non metta, non si pulisca gli orecchi con corto fiocco, perché lascia le peluzzi e quello va dentro, fa composizione, si attacca e dopo si indurisce e fa sì a toglierlo, capito? È peggio. Me l'hai sconsigliato assolutamente. Che non le uso assolutamente io. Oh, no, no, ah. Per carità, vabbè, là. Oh, già. Va bene, grazie, là, io chiudo, là. Ma convinci, così che... poi comincia poi la badetta, mi posso la bassa asciutta, a giocare bassa asciutta oggi, là. Per cui mangio bassa asciutta e saluti. Dai, a ragù. C'ho un polpo che non taglia fatto la insalata. Dopo le metto un pochettino in mezzo alla pasta asciutta così, carta e poco ci vuole, Un piatto meno male di pasta asciutta, grazie. A domani, ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte, no, io faccio la messa a brutto, mi mangio vista e buh. Vabbè, a domani, ciao. Ciao, buonasera, buonanotte. E dove stai andando, bello poi? Non mi piacciono. Qua sono ancora, grazie. Oh yeah! No, io subito ho stato il computer perché l'ho lasciato attaccato a caricare la batteria, anche se l'ho usato un paio di ore stasera. Lo sto lasciando caricare bene. Eglia, era a metà la batteria, cioè di meno di metà. Adesso lo accendo a vedere che livello è e sciabile. Il mio computer è nuovo, cosa ti credi? Siamo a Mendoza. E allora? Adesso non ricordo quanti anni ce l'ho, però per come lo uso io. Cazzo, è nuovo nuovo. Non è che tocca a forruggiare tutti i super forruggiai, ma... Beh, me ne guardo cose, anche qualche film mi guardo, però non sempre, no? All'inizio sì, poi mi ha truffato. Oggi l'ho messo in moto per farlo funzionare, anzi, l'avevo avviato anche a caricare, mi sta ancora caricando, scritto in inglese, Getting Windows Ready, Don't Tour of Your Computer. Ho capito, Windows? Che l'ho mi 51 100% complete, mi ha caricato, ecco, si è acceso, ecco, ha completato il caricamento, l'aggiornamento. Sì. Vedi. Ma c'è Windows 10 tu, no? O Windows 8, cos'hai? No, quando c'avevo il modem, o cosa si chiama, è su coso portatile, ce l'ho conservato, gli ho dato la bisletta, perché intanto ce l'ho anche in casa. Quello me l'avevo fatto perché me lo portavo in campagna, però il computer me l'ho portato una volta solo. Poi in campagna mi portavo il quel coso quadrato e il tablet, cioè il tablet è nuovo lo stesso, e qui in campagna mi portavo il tablet, la batteria è carica, è tutto qui, è aggiornato, andava via. Vabbè, se ti basta quella sicurezza per internet, va bene. Ah? Ho detto, se ti basta quella saponetta per internet, già va bene, io ce l'ho fissa a casa. No, quello gli ho dato la disletta, adesso ce l'ho in casa fisso, e lo offro in casa, tanto per campagna. Mi guardo il telefono, in casa lo metto a usarlo con quello di casa, nel telefono. Però quando esco cambio posizione e uso quello del telefono. Dunque se sono in campagna mi guardo dal telefono, ma col tablet mi ho portato qui. Oh, intanto era la stessa cosa, ho telefono, ho tablet, ma... il tablet ne ho da regalarmi. Il mio è nuovo, l'avevo preso tutto, acquisto di MPL, cioè tutto quanto. Cioè è comodo, però se me lo posso abbassare un telefono non sto caricando chi su mo o cosa si chiama e pagare un'altra, altre 20 euro per quello. No, gli ho dato la disletta, anzi, ma ne faccio pagare 57 euro. Di multa, perché no, il contratto non era scaduto, scade quest'anno, a Villa Bozza a novembre cade. E io penso a novembre mi avessi dovuto regalare 23 euro a Villa Bozza. Ah, beh, certo, cosa devi dire? Mu, regalami un tablet. Ma ti regalo? Un tablet regala, ma dai. Ma tu parecchio. Però oggi che ce l'ha da regalare e quello mi regali un tablet. Tu occuparei, a te non ti regalo, tu occuparei. Marina, accudici in carrera, adesso domani gli porti il tablet, se no ti fa il giro di banca, ti viro Marina. Ah, se te mi prendi la supposta. Così impari, adesso glielo dai, perché ha detto che ce ne hai tanti anche da buttare. Ah, ma io ne avrei preteso due o tre, vero Mari? Allora, guarda, ti comballo, ne ho, aspetta, ferma Mari, allora ne ho uno, ferma un attimo, se non riesco a parlare. Allora ne ho uno, due, tre, quattro, cinque, sei, di bastoncino. Allora, sono quattro tablet, poi c'ho... C'ho, aia, ferma, c'ho l'S2, l'S5, quattro telefoni, poi c'ho un Wico, insomma non mi mancano i cose, faccio due computer. Dai a Marina, un telefono, un computer e un tablet, e se ne ha posto, così e ce l'hai lì, se lo devi usare lo usi anche tu. Ma non si mi quasi usa, tanto fu io il suo lì, ma ti pare se non avrà più dato. Io do il suo, lì si usa il suo, cosa? sì, tablet ne ho. C'è un Huawei, bello quello lì, Mi ha quello gli ho ordinato, lo metto nuovo, il display nuovo, che me l'ha ordinato Luca. Poi c'è un altro, Alcat, e poi ne ho un altro ancora. Ne ho altri da riparare, insomma quanti ne ho. Solo che, già, va. Ma niente, la puoi vivo gratis, capito, grazie. E tu gratis, non li dai, assai. Ah, uno lo scendi, magari se lo guarda, lì si diverte. No, c'è il telefono, grazie, ma cosa se ne infatti? Va. Ah, poi ce l'ho proprio un dogo, ma non se ne fatti nulla. Glielo porti domani, glielo fai vedere come funziona e così si impara a burueta. Ma di che non l'ha già visto, va? Vabbè, a vedere una dosa, a vedere un'altra, o lui. Lei già ha visto, non ne frega niente, se no me l'avrebbe chiesto. Ne ho uno in consegna pure da settembre scorso, vedi un po'. A 8 metterito, a 9 metterito, a 10 metterito. Ma ti mando un messaggio come mi raggio più in tutto, cioè vediamo cosa mi dici. E tu dici, se entro domani non vieni a ritirarti, il tablet me lo vendo. Domani stesso, se alle 5 non sei a casa, ritirartelo. Il tablet me lo sto vendendo, non ti devo mantenere la cosa comunitate. Tu accevi, gli dico sì. Ma se uno, un esempio io, no, tu cosa ne so, ripari il computer, grazie, allora faccio un esempio. Dico grazie, me lo ripari il computer. Se te lo porto, me lo controllo, lui ci vuole tosto. Va bene. Cioè non è che ti vuoi tassare 10 mesi per ritirare a Miro. Se non è di là, non gli va. Inutile, no, non gli va. E il gusti, ma li via di là si rimagna, si ripisti. Perché non c'è più venuto dove frequento io. Capito, grazie. Se li beve. Poi sono 30 euro che mi devi dare, non è che mi devi dare chissà quanto, 10 settimane, due di tablet, due. Solo io uno la giubbotto della volta la prima, perché avevo messo un display a spese mie, alla fine lì non ci sto manco guadagnando niente perché il display costa oltre 30 euro. Ma la giubbotto, vabbè, tu dammi 30 e 30, sono 60. E mi ha detto che uno dice non vuole. Caduto, sì. Sono caduto. Ehi, ti va a cattare la parola. Deve essere quando arriva al termine si spegne. E forse va in protezione. Ehi, c'è anche da me qui, quando arriva si spegne e ti riponde la ginizza. Senza ginizza. Ehi, ne la devo bucare, una degli stilini la buco. Fate qualcosa qua. Ehi, basta nelle impostazioni, metti off. Ehi, ma vanno a giocare, se non ne aveva già fatto. Anche quando la accendo, mi risponde la cinese. Comunque, per farla breve, me ne ha dato due, più un telefono da riparare. Il telefono si può riparare perché non ci trovi i pezzi. E invece questi tablet gli ho chiesto 60 euro tutti e due. E lo sei visto, né 60 euro né nulla. E tu domani lo chiami e ve lo dico, o vieni a ritirarti quella cosa, se no neanche che me li vendo. Ci sto buttando tutto perché sto svuotando in camera il magazzino dove li rifare. O vieni e mi dai soldi e ci butto tutto, così dici. Io non le dico nulla, grazie. Per più molti la giudizio di corsi. Quando mi dico, ma non sono più venduto. No, lo devi avvisare. L'ultimo avviso glielo dai. E te ne cosa dice? Se ti dice, mi guarda, vengo a fine mese. No, qua, vieni stasera, se no non ci venire a fine mese perché ce lo sto buttando alla mondezza. Se non vuoi mi dai l'elina. Lo tablet è a corso, un telefonino di rubi punti e l'altro di rubi come ti me l'ha regalato. Per un dia, sai, se ti dice, vabbè, fai come ti vuoi, fini e ti rivedi. Ma si vede che un magna, un magna mezza. Ma se tu non fai così ti fini la cameretta di tutta questa mondezza dell'altro. E la poi Ma è capace di rovesci da poi in piazza a casino ti fa dei difetti, perché c'è anche un sacco di gente che fa così in me. Ehi, dai, c'è rimuso da armate che aveva in mezzo di bene. Casino. Sono un amico mi ha spedito dei telefoni di cui uno ha un iPhone, ha il vetro rotto, vabbè, quello ma manco, ma non ce ne spendo proprio di soldi. Poi mi ha spedito un altro telefono Huawei, lo stesso, caduto in acqua, nuovo, mi fiammante, accende, si riavvia di continuo, è la scheda madre che purtroppo è morta. Ma è inutile che tu racconti, da poi non riesci a finire cosa te ne fai, te l'ha fatto di no? No, senti, ne ho, e poi c'è un tablet Samsung, un tab 2 o 3, boh, 4, se non mi ricordo, anche quello fiammante, color gold, e lì ci mancano i cristalli liquidi, ma alla fine, boh, già... Anche solo riparo, ma tanto costa i cristalli liquidi col vetrino, quasi 200 euro. Ehi, allora la faccio di fare prima. E cosa, non sarei macco a questa una cosa del genere. E cosa ne fai? Vai, vai. Poi se mi capita, magari uno di quei tablet così che c'hanno la scheda madre, ma andata, la stacco da lì, me la prendo e gliela metto lì. Bah, via. Cande, la stavo ce l'ha giusto 4 o 5, tratta la vetrina a Portobello, a 20 euro, mi pare, lì, me l'ha scritto. Ma, oramai, bruvissimo, passando di moda. Guardi tutto al telefono, fai tutto col telefono adesso, il più, così è per il computer. Prima niente, cazzo, pare che va via, chissà cosa va via un computer. Pensa che io, tanto che va via la giornata, ma un cane, ha fatto da via che era sempre nato alla scrivania, li più bravo il bu, a chi mi aveva già stufato, ed era quello fisso. Sì, vabbè. No, non li butto, grazie a capita che magari uno di quei tablet hanno un problema di batteria. La batteria è nuovo. Allora, mi ha raccontato chi me l'ha dato, la mamma di questo ragazzo, che lui stava sempre attaccato a questo tablet, non studiava mai. Mi ha pigliato per acuta faccia e ha rotto i cristalli liquidi. Oh, ma se costano così i cristalli liquidi? Niente le mucche, il logo. Vabbè, già non me ne danno fastidio. Scusa, là, si mette a posto il computer. Te mi guardo il telegiornale. Ciao Luca, buona cena, buon tutto. A domani, ciao. Via, ciao, grazie, buona cena. Saluta la Paoletta, ciao. Ehi, ciao ciao, saluta Marina, buona cena a tutti, ciao. Ciao, grazie. Ciao ciao.